massimo che posso fare. Bentornato, Saulo. Scusate. Ok, ho giusto illustrato un po' meglio com'è la piazza a Pyre mentre aspettavamo. Dicevamo, Dino, cosa volevi fare? Allora, volevo iniziare l'orchestra e cercare di andare dentro a quella struttura dove probabilmente ci sono le persone che cerchiamo. Vedete la forma di Gino che è avvolto in una specie di nebbia mista, una nebbia magica, si riduce fino a diventare una lucertolina di queste dimensioni circa. Non era Più questo che volevi o... o meno, sì. Ma Tipo dillo così. pure, il tuo incantesimo deve Ah, essere... che schifo! Vedete che... Le sue squame sono di un leggero colore bluastro. Ok, ti metti a... Sì, vado verso il posto cercando di evitare fonti di luce e altri animali, visto che Noti che non ci sono altri animali in giro. Vedi che sulla riva proprio... c'è un porto poco distante da qui, è un po' spostato verso ovest. Noti che lì ci sono dei gabbiani che svolazzano intorno alle navi e al resto del pesce che probabilmente è stato pescato in quel giorno. Però nella piazza non ci sono animali, ci sono solo persone. Vedi che alla tua destra c'è un piccolo gruppetto di uomini sulla trentina, si spostano con del... Dopo altre fiacche, allora tu ti muovi cercando di restare nell'ombra, vedi un altro gruppetto di uomini, sempre sulla trentina circa, e piano piano, superando altri gruppetti, arrivi praticamente alla base dell'edificio. Ci sono altri ingressi oltre alla porta, però non certo, tipo una finestra, un'apertura. Non ci sono finestre nell'edificio, però pensi di poterti tipo... Siccome appunto è fatto in questo modo particolare adesso che sei vicino, noti proprio presente il legno grezzo trasportato dal mare, che intanto si trova da lì, è stato tutto levigato, è stato sbiancato dall'acqua marina. Sono tronchi e grossi rami di questo tipo che sono stati incastrati tra di loro a formare la struttura. Passando, diciamo, vicino anche all'ingresso, non riesci a non notare che l'ingresso principale dell'edificio sono due tronchi, sempre di questo stesso tipo, però molto molto grandi, incrociati a mo' di triangolo, sui quali però ci sono delle incisioni, un bassorilievo che è stato anche dipinto con un inchiostro nero, che rappresenta su ognuno dei due tronchi una creatura molto simile a quella che hai visto attaccare la Ventus di Tramontana la notte in cui siete arrivati. Ok. Non è vero. Mentale al riguardo. Che c'è da quella? Detto questo, puoi decidere, come dicevo, vista la forma di questa struttura che è stata fatta in questo modo particolare, pensi di poterti intrufolare tra le fessure tra un tronco di legno e l'altro e entrare nella stanza. Esatto, faccio questo, cioè mi infilo attraverso un buco nel legno. Ok, ti infili attraverso il buco e fai capolino tra un paio di assi di legno. Dentro questo edificio che intuisci possa essere una specie di chiesa, a giudicare dalla conformazione interna, noti infatti che ci sono delle panche scavate nella roccia. Il pavimento dell'edificio è sulla roccia viva proprio. E quello che sembra essere un altare, ma altare è definirlo tanto, è un pezzo di pietra più grande e con delle candele sopra e leggermente inciso con dei disegni che però da dove sei tu non riesci a vedere. E dentro questa chiesa, illuminata da delle torce, ci sono appunto una quindicina di persone. La maggior parte sembra impegnata tra di loro, stanno tipo sembra tipo no, aiutarsi l'un l'altro a indossare delle vesti oppure preparare delle candele o cose del genere. Anzi, però intanto due cose principalmente. La prima è che tutti o quasi tutti, la maggior parte di queste persone, a differenza di quelle che hai visto all'esterno, sembrano essere anch'esse tutte uomini principalmente, ma sono tutte, ognuno di loro è fasciato o sul volto o sulle braccia, sembra, o alcuni hanno i piedi fasciati, uno di loro ha la testa completamente fasciata lasciando solo una fessura per gli occhi. Ma riesco a capire cosa vai? Puoi provare a fare un tiro di medicina. Cioè, voglio cercare non tanto di capire la condizione, cioè riesco a vedere bene cosa c'è sotto le bende, se c'è qualche tipo delle parti. No, che... mai la mia medico, perché sono bendati e distanti da te. Appunto che le bende siano usate per coprire quello che c'è sotto, quindi non... Cioè, manca un pezzettino scoperto. No, medicina per sono capire. Molto accurati nel coprire ogni parte interessata. Ma tu non puoi entrare dentro questa costa? Provo a fare un tiro di medicina per capire se... Cioè, se posso capire cosa potrebbe essere... Non puoi... Allora, ti dico subito che con un tiro di medicina... essendo da lucertola e così distante non puoi capire cos'è, puoi fare supposizioni su cosa sia. La lucertola c'ha lo stesso punteggio di saggezza che c'ho io, però vabbè. No, nel senso, il punto è che stai guardando una persona bendata. Il tiro di medicina ti serve a ricordare quali malattie possono causare infezioni della pelle o... Sì. Però se non vai lì vicino e guardi le ferite non potresti mai dire di che cosa è malato uno. Puoi dire solo... Quindi sai solo che probabilmente è una cosa della pelle. Poi ti posso dire più indefiniti, più in precisione quali tipi di malattie della pelle possono esserci nel mondo del ferro, però questa è un'altra cosa. Vabbè, non ti resta a fare in capo, vediamo. Ma non puoi entrare dentro queste cappelle di Cospolo, certo? Non capisco. Allora, prima una cosa importante, dove sono adesso? Riesco a vedere tutta quanta? Aspetta. Stavo dicendo, mi hai interrotto un attimo prima. Due cose importanti ci sono. Questa è la prima. La seconda che noti è che il gruppo più grande di persone, saranno almeno 7-8 persone, stanno tutti assistendo una donna, l'unica donna presente nella stanza, che si trova appunto vicino a... Sembra indossare delle vesti. Non riesce a capire bene di che sostanza siano fatte, però è uno strano, sembrano essere tipo verdastre, un colore verdastro. E lei, come le altre persone nella chiesa, indossa una fascia che nessun riferimento religioso ha intesa. È presente tipo il burka, non altro. Terrorismo! Razzismo. Ha la testa fasciata completamente, lasciando scoperto solo il volto. Questa donna, dicevo, stanno aiutando a indossare questi abiti fatti di un materiale molto strano che non riesce a riconoscere a quella distanza. E vedi che tiene in mano un bastone di un colore rosso acceso. Sembra essere fatto di uno strano legno o pietra, ma è di colore rosso acceso. Puoi capire se è magico? Già lo vuole, già ho capito, ma... Non so, hai detect magic, incantesimo? Lo so, non ce l'ha. Tanto non lanciarlo perché sei una lucertola, quindi era giusto per... Non dicavoli. Ti ripeto, da dove sono adesso io? Posso vedere tutta quanta la struttura oppure non c'è, sono alcune parti che non vedo? No, da dove sei tu riesci a più o meno vedere questa struttura, non è grandissima. Ok, ci sono... È a mo' di ovale, tipo un ovale con Oddio, mi manca il termine matematico, ma l'asse più lungo sarà tipo 60 piedi. Ok. Ci sono scale o porte che non conducono all'esterno, che vanno tipo sotto o in uno stanzino? No, è tutto qui. Non vedi scale? No, non so. Ci sono i... un tiro di investigazione. Non percezione, sei sicuro? Anche percezione può andare bene. 22. Per come è strutturato, diciamo, ti viene a intuire che l'unico luogo in questo posto dove potrebbero esserci delle scale potrebbe essere la zona dell'altare, probabilmente. Ok. Quindi abbiamo detto, riesco a vedere tutto, quindi non ci sono discrepanze fra la forma che aveva fuori e quella che c'è dentro. No, assolutamente. C'è la tizia col bastone, i tizi bendati, nessun membro di equipaggio, nessuna gabbia, nessun tizio legato. No. Allora cerco di spostarmi per arrivare dalla, cioè per vedere meglio la zona dell'altare, quindi vado dall'altra parte, cioè cerco di percorrere la struttura in lunghezza, diciamo. Ok, ci riesci sempre senza problemi perché ti intrufoli tra le fessure del legno, tra gli squarci della struttura, e passando dalle pareti praticamente riesci ad arrivare nel fondo della chiesa. Ok. Se vuoi puoi anche scendere. Se nessuno mi vede, sì, provo anche a avvicinarmi proprio all'altare a controllare se ci sono scale, botole, meccanismi. Ok, scelto. Puoi fare un tiro di stealth. Lucky. Ho fatto 21. Ok. C'è qualche persona che si aggira intorno all'altare, più che altro vedi che sembra che stia tipo prendendo, ci sono delle casse intorno, sembra estrarre delle candele, ogni tanto escono con un altro pezzo della veste che stanno facendo indossare alla donna. E però sì, riesci a, essendo lucertola piccolina, riesci a benissimo ad arrivare all'altare senza che nessuno ti noti. Ok, vedo meccanismi, botole o scale? Esaminandolo più da vicino, essendo così proprio vicino al pavimento, essendo una lucertolina, noti che sul pavimento praticamente sembrano esserci segni, dei graffi, segni di scorrimento, come se la pietra potesse essere strisciata, e in alcuni punti dell'altare, da sotto l'altare ti sembra di percepire anche una leggera brezza, e come in lontananza un eco di onde che si infrangono sulle rocce. Ok. E non c'è una fessura in cui posso infilarmi? No, però per come ora l'altare copre, sembra un solido blocco di pietra. Quindi vabbè, torno indietro, esco, torno da loro e riferisco. Mentre tutto ciò accade, dicevo, mentre la lucertola sta esaminando l'altare, quelli fuori possono dirmi se fanno qualcosa. Perché adesso notate che un gruppo di persone sembra venire verso la vostra direzione. Boh, per il momento io cammino con una moderata nonchalance. Cioè, noi siamo rimasti che aspettiamo Gino. Quindi... Sì. Okay. Se non fate niente, sì. Boh. Io mi nascondo. Non faccio nulla. No, anche io non faccio un posto lì. Faccio finta di conoscere il luogo e... Ah, cioè, ti nascondi o resti più o meno allo scoperto? No, io resto allo scoperto, semplicemente non... Ok, allora vedi che questo gruppo di uomini si avvicina a te. Si stanno avvicinando più o meno alla zona dove sono. Quando ovviamente uno di loro, tipo c'è gli altri, e si avvicinano a questo punto verso di voi. Oh! Posso nascondermi? Posso nascondermi? Fai un tiro di stealth. Chi si vuole nascondere, faccia un tiro di stealth. Non fa niente. Non è importante. Allora chi vede? Io ho fatto più di 20, quindi. Ok. Vedete, Pyre, John e Gallifrey sono rimasti più o meno, sebbene diciamo non in mostra al centro della piazza, ma non si sono neanche nascosti come ha fatto Barbagianni, che tra l'altro perdete di vista in questo momento. Nessuno sta guardando. Venite approcciati da tre uomini. Notate approcciati. Uomini abbastanza giovani. Tutti avranno dai 25 ai 30 anni d'età. Chi con la barba, chi con un po' di barba, chi meno, tutti. Rapida sorpresa, Fireball. Round a sorpresa. No. Lo sai come va a finire? Perché tu neghi la realtà, Salla. Lasciami finire, va. Il mondo fa schifo. Uno di loro sta anche fumando una specie di pipa di spugna. Okay. E proprio questo si avvicina a voi con la mano tesa. Piacere, io sono... Scusate, io sono Atar. Chi sei? Atar. Anna? Io sono Johnny. Ah, oh, piacere, non vi abbiamo visto nell'isola. Siete arrivati oggi, da poco, non... Sì, ci hanno chiamato dal continente per dare una mano. Ah, una delle navi probabilmente da pesca. Ma venite, cosa fate in questo vicolo? Possiamo offrirvi... Da bere, ci fa sempre piacere parlare con quelli che vengono da fuori. È che aspettiamo il nostro amico. Si è perso. No. Ok, allora... Prego, magari non penso mi interesserà, ma... Esatto, dici dov'è che si va a bere. Oh, tipicamente l'unico posto dove si può fare una bevuta decente qua in giro è la locanda laggiù, all'altare. Santuari. Trovate qualcosa da bere all'alta marea, l'unica locanda che potete trovare in questo villaggio. C'era una piena, in effetti. Ci trovate lì. Per il resto, buona serata. Sì, ci vediamo tra un'oretta, magari. Magari non restate qui nella piazza, dopo ci sarà una funzione, se non interessa particolarmente, vi conviene non restare. Ok, grazie. Buona serata. Ciao, buona serata, Firebolt. Io mi volto, faccio uno scappellotto a Jump. Firebolt. E dico, vabbè, e che ciò mi sta bruciando proprio il cuore. Ti brucio il culo. Mi sta bruciando il culo. Un'altra piccola cosa che notate con questo piccolo approccio tra quelli abitanti del villaggio, non lo vedevate da dove eravate voi, ma almeno questi tre uomini portavano tutti con loro un libro. Cosa che tipicamente non è proprio da... Siamo riusciti a intravedere che tipo di libro è? No, il punto è questo. Sembravano tutti diversi da loro. Alcuni era un libro rigato in pelle. Uno sembrava in realtà un mucchio di fogli tenuto insieme da dei legami. Però non sapesse dire. Abbiamo visto una roba simile da Ciccio Coso o no? Da Tobias. In che senso? Un libro c'era simile? Un libro simile, sì. No. Che noi ricordiamo, ovviamente. Magari. Nella casa non mi sembra di aver visto. Va bene. Niente. Okay. Avete visto quel libro schifoso? No. Fanno finta di essere colti e poi ammazzano i bambini. Che vergogna. Magari poi sono preghiere a un dio blasfemo. noti che uno dei libri si intitolava Annegare bambini for dummies. Pedagogia. Ok, tornando alla lucertola. Che vuoi fare? Sulla griglia del ritorno, le porte della struttura possono essere chiuse con medio sforzo, diciamo. La struttura non ha porte, ha solo una pesante tenda che separa l'ingresso dall'uscita. Dall'interno, dall'esterno. Quindi si può bruciare la tenda. Si può bruciare. Perché il mio piano prevedeva di chiudere le porte e di massacrare tutti quelli che stanno lì dentro. Ma non serve chiudere le porte, ancora con queste inibizioni, cioè. Tra l'altro, ridendo e scherzando, più o meno saranno le 22 di notte. Bene, vai ad entrare, mi sa. Torno indietro, vai. Va bene. Cioè, scusa, fammi capire, ma quindi questi qui avevano al posto del crocifisso un polipo? Sì. È casa Greyjoy, noi non seminiamo. Questi qui guardi di cui hai parlato. Cioè, quello che ha visto Jacopo in pratica. Jacopo non ha visto effettivamente simboli sacri o cose del genere. Solo persone fasciate e questa tipa qua con un bastone rosso in mano. No, casa dico, Greyjoy, Giusto, quando ti sei avvicinato all'altare, Gino, hai notato che effettivamente è un singolo blocco di pietra abbastanza grande, però sul cui di fronte, nella faccia di fronte rivolta alla chiesa, c'erano dei bassorilievi con un'immagine che sembrava essere di nuovo un'altra di quelle creature tentacolari che hanno aggredito. È scritto per i nostri peccati. Quindi non hai visto tracce dei tizi? Dovrebbe essere sotto l'altare, dovremmo spostare l'altare e andare sotto. Però non c'era un'altra parte dove potevano essere questi tizi? Non puoi sapere, cioè nel senso. Okay, l'informazione che ha Zed, hanno detto che hanno tenuto il bambino che avevano poi lanciato dal dirupo dentro questa chiesa, almeno per la giornata in cui era nato. Per il resto non ho idea di dove possano essere tenuti i miei bambini. Allora, torno indietro e ripeto. Ok. Okay. Scusami, i tre tipi che ci hanno fermato, uno si era presentato? Sì, Atar. Gli altri erano rimasti in disparte? Gli altri erano rimasti dietro, avevano visto che voi non sembravate molto comunicativi. Beh, anche di noi uno solo si è presentato. Infatti, tra l'altro. Ci sta, nel senso, fa così. Vabbè, dovevi dirgli che ciò che è morto non muoia mai. O una preghiera qualsiasi al dio abissale. Tipo, anche noi non seminiamo, secondo me, sarebbe piaciuto. Vabbè, niente. Fa niente. Vabbè, e se non li hai visti, non entriamo. Se li hai visti, entriamo, dici tu. Non li ho visti, però potrebbero essere sotto la spalla. Ma potrebbero... Foltus ha bisogno di prove. Il problema è che come faccio a spostare l'altare senza farmi vedere? È un buon problema. Vabbè, allora entriamo e glielo chiediamo. Avete le pigioni sotto l'altare? Esatto. Mi sembra una cosa per... Giusto per farvi capire una cosina. Solo un secondo, per farvi capire una cosina. Il promontorio dal quale... Zed aveva detto che avevano lanciato il bambino, si trova praticamente dietro la chiesa, e sullo sfondo della chiesa si intravede anche la cosa. E c'era infatti adesso lo guardate, che guardate in quella direzione, tipo vedete che ci sono delle fiaccole accese sul... Ah, ok. Al promontorio. Andiamo. Non lo dico, Aspetta, domanda, ultima domanda, poi andiamo. L'altare lo può spostare chiunque o secondo me ci vogliono tipo John e Edoardo insieme per riuscire a farlo scorrere? Probabilmente è un'impresa da un paio di persone. Ok. Però non è che ci voglia Schwarzenegger per farlo. Un po' come spostare un armadio, un po'. Ok, ora andiamo. Andiamo cioè andiamo al promontorio. E ho perso di vista Barbagianni. Sarà già andato. Ciao. Ma no, vabbè, io vedo in che direzione. Puoi ascoltare tutto nel buio, Barbagianni. Non è che tengo gli occhi chiusi, se sto nascosto. Lo so, se a noi che non ti vediamo. Ma tu hai sentito loro nel buio, Barbagianni? Cosa? Li hai sentiti parlare nel buio. Ok, e vabbè, gli altri se ne sono andati, no? Non è che sono ancora nei paraggi. Dici i tre che si sono avvicinati prima, sono andati via, no? Ok, allora riesco fuori. Occhio che ti è arrivato un fa... Oddio, che paura! Dove eri nascosto? Dicevo, occhio che ti è arrivato un fax lì. Si è visto. Ti è arrivato un fax, Gava. Sì, ecco, questo qua c'è un telegramma per lei. Ok, andiamo verso il promontorio. Andiamo. Quindi c'è luce, immagino. In che senso? Dove stiamo andando? In che restate nella prossimità del villaggio? La luce c'è per via delle case che sono un po' illuminate, cioè della luce da dentro che traspare un po' dalle finestre. Però tra il villaggio e la cima del promontorio che è illuminata c'è una zona che è completamente buia, un sentiero che si parte dal villaggio che però è completamente immerso nell'oscurità. Quindi noi stiamo andando in un posto illuminato ma siamo al buio, quindi dovremmo vederlo. Vedete il posto, non vedete cosa state pestando però. Vabbè. Ciao. Di corsa. Vediamo. E niente. Oh, sì, io vado verso la cima. Abbiamo visto, abbiamo detto. Ok. Mi notate dal villaggio? Cercando sempre di non farvi notare? O... No, non ho mai cercato di non farmi notare io. Però mi interessa, esatto. Okay. Allora, passando anche dai vicoli, non più, cioè non tanto dai vicoli, ma diciamo dalle strade un po' più grandi del villaggio, passando lì, notate che più va avanti la serata, più le persone nelle case sembrano uscire e dirigersi alla piazza principale, ovviamente nella direzione opposta alla vostra. E ogni tanto qualcuno di loro ovviamente si ferma a parlare con voi, nel senso tipo vi saluta e vi ferma, si presenta e dice: oh, siete stranieri, non se ne vedono molti da queste parti, non dovreste stare in giro di notte, però non c'è nulla da vedere in questa città, vi conviene tornare alla locanda, vi consigliano di tornare indietro. Grazie. Ah, io chiedo, perché voi siete in giro? Siamo un piccolo villaggio, sì, ci piacciono le funzioni serali. Anche a noi? Come? Anche a noi piacciono. E quale dio pregate in questo villaggio? Ah no, lo chiedo con innocenza. No. Aspetta che non mi ricordo il nome. Aspetta. Vabbè, a lui non gliene frega, tanto non è Fortus, cioè o sei con me o sei contro di me. Per lui non ci sono vie di mezzo. In realtà c'è che sono abbastanza evasivi alla domanda. Una divinità locale, probabilmente non la conoscete. Adesso dobbiamo andare. Quali sono questi tizi, scusa? Allora, la prima volta che... Il primo che mi capita alcune volte, sono la prima volta è tipo un uomo di sarà sulla trentina che vi ferma un po', mi saluta, è sempre solita solfa. Seconda volta sarà un uomo sui 25 anni, terza uno sempre sui 25 anni, 27. Di nuovo un uomo sui 30, un uomo che ne avrà al massimo anche lui una trentina, eccetera, eccetera. Ed effettivamente a questo punto un po' la cosa comincia a scattare. Ci sono, avete visto finora solo uomini sulla diciamo di questa età nel villaggio, uomini dai 20 ai 30 anni, tutti. Esatto. Wow. Vengono tutti sacrificati a una certa età. È la mano. Non avete visto vecchi, non avete visto bambini, non avete visto praticamente nessuna donna, forse una o due, anch'essa di età tra i 20 e i 30 anni. Ah, non c'è una vecchietta con un bastone, quindi. Non la vedi da nessuna parte. Madame Gao. Esatto. Anche la donna che Gino ha visto nella chiesa. 25 anni al massimo, non di più. Ragazzi, dove cazzo li pigliano tutti sti bambini? Mi piace questo posto, ci posso inventare lì? Qui sono tutte recte praticamente. Ma tutti sti bambini li coltivano nei campi? Ma sono senza donne, come cazzo fai? Appunto. L'auto inseminazione. Vabbè, e allora forse rega era meglio se ci fossimo divisi. Ora che possiamo, tipo un po' vanno su e un po' rimangono qua. Possiamo prenderne uno e torturarlo per dare tutte le informazioni che ci possono servire? No, possiamo, no. Finché non ammette di essere colpevole. Ok, va bene. Io ci provo. Nessuno di loro però vi ferma o cerca di impedirvi di allontanarvi dal villaggio. Secondo me potremmo andare alla funzione e contemporaneamente andare su. Così Marco si incasina di brutto. Oh sì, ha fatto una visione. Va bene, allora tu Paire vai su, che magari c'è la tua amica. Va bene. E io mi prendo un altro. Va bene, l'amicizia. Va bene, mi piglio Gallifrey. E voi, yeah. voi altri tre andate su e ci rincontriamo dove c'è il fuoco più grande. Ok, ci dividiamo quindi. Così Marco scoppia. Yeah! E attacchiamo senza ritegno in tre parti differenti. Gente a caso. Asincroni. Chi è che torna verso la piazza e chi è che va alla collina? Io e Gallifrey verso la piazza e gli altri tre verso il promontorio. Ok. Allora. John e Gallifrey. Voi cambiate di invertite il senso di marcia, fate un'inversione a U e di nuovo sulle strade principali vi dirigete verso la piazza. Nell'allontanarvi così, ormai si avvicina sempre di più la mezzanotte. Saranno. Sì, un secondo. Tu che sei carismatico, chiedi a qualcuno in giro se possiamo unirci a questo rito o informazioni sul rito, ste minchiate. Ci sta. Ci sta. Vai. Ormai nel tornare indietro notate però che ci sono. Beh, adesso ormai sono poche le persone che stanno ancora uscendo di casa, perché molti si sono già avviate, però riuscite a trovare l'ultimo ritardatario. Vedete un uomo di circa 30 anni. Circa 30 anni. Che sta uscendo in questo momento di casa. Vai. Ehi, ciao. Oh. Anche tu devi andare alla cerimonia. Non se ne vedono molti da queste parti. Ho parlato un po' in giro, ma a quanto pare siete tutti andate tutti di corsa per questa cerimonia. Ma tutti si possono partecipare? Non penso che la trovereste di grande interesse. E comunque no, purtroppo è una cosa privata, solo i membri del villaggio possono. Se non sono indiscreto, puoi dirmi giusto due parole su cosa avete, su cosa, in cosa consiste? Come ho detto, è una faccenda tra noi del villaggio, non deve interessarvi. Dovete dirigervi alla locanda, all'alta marea. Forse c'è ancora qualcuno con cui scambiare due chiacchiere e fare una bevuta. Io posso chiedere, cercando di circuirlo? Del tipo? Scusa se chiedo, del tipo? Il tipo... Io sono un caro amico di Tobias. Io sono molto disponibile. Sono un caro amico di Tobias, sono venuto qui in città per porgergli un saluto. Ah. A girare, giusto? Perché sto dicendo una cazzata adesso. Sì, sono cazzato Friends solo per avere vantaggio sul carisma. Giusto per curiosità, c'è altra gente intorno o c'è solo lui? Aspetta, gli casti Friends. Solo lui ha detto. Oh, prima che cambiamo idea, cioè detto che c'è solo lui. È l'ultimo ritardatario, non ci sta più nessuno, giusto? Sì, nei dintorni sembra esserci solo lui. Era essenziale. Cioè, però. Aspetta. Non ho capito, però, gli lanci Friends. Friends me lo casta a me, ma Friends ha soltanto vantaggio sul carisma, cioè non è niente, è un Cambridge, cioè. Però dopo un minuto la persona ti odia. Sì sì, ma poi sì, la picchiamo, no, tranquillo. Si accorge che è stato raggirato, tutti i libri di lui. Sì, 19 ah no, più 4, 13 23, 23 voglio dire. Come, scusa, ecco, cos'è che 4 tiri, e 3 8 che botta di... no ho detto visto, no, sono un caro vecchio amico di Tobias, ero venuto qui ma sapendo la cerimonia non riesco a trovarlo da nessuna parte, volevo sapere di più così almeno potevo incontrarlo, però se mi dici che non posso venire, che è solo privato, volevo sapere almeno su cosa, qual era l'argomento, quando poteva durare, così almeno so se posso aspettarlo a casa. Credo di conoscere nessun Tobias nel villaggio. È sicuro che si trova qui il tuo amico? È quello che ha il figlio Halfling. Sì, abitava in casa in fiamme. Ma l'ho trovata disabitata, quindi ho pensato che forse si era trasferito. Poi sono anni che non ci vediamo, siamo vecchi amici. Abita in quella casa in fiamme, la vede? Sì. Gli dici la fattoria effettivamente eravate per prima? Sì. Infatti dico. Forse si è trasferito. Però volevo soltanto salutarlo, visto che ero passati per di qui. Siamo arrivati. Tutti passano in un'isola per caso. Sì, beh, certo, è un'isola d'altronde è di passaggio. Io e mio amico siamo arrivati proprio oggi e siccome eravamo nel tragitto, io ho detto. Perché non ci fermiamo che vado a salutare il mio vecchio amico? Sì, però, sì. Come ti ho appena detto, non l'ho trovato da nessuna parte, sono andato in centro, tutti erano adoperati per questa funzione, però nessuno mi ha indicazioni precise. Però non lo fai parlare, è difficile ottenere una risposta, te lo dico. Ecco, no, e Jeff continua a parlare per un minuto, scade. Esatto. Ok. Tobias, hai detto, nella casa... Quella in fondo al villaggio, quella all'estremo. Sì, il fumo. Come ho detto, fareste meglio a tornare nella locanda. E innervosito si vi volta quanto... le spalle. Innervosito sta per voltarvi le spalle e andarsene quando John lo afferra. Devo tirare. Sonno! Se lo prendi per la spalla, così dipende cosa vuoi fare, cioè. Lo prendo, mi lo casco volto. Sonno. No, lo prendo, lo volto e tiro una smatagnata in faccia. No, lo puoi fare anche senza ucciderlo, però, vero? Sì. Devo tirare? Sì. Tiro per colpire. Allora, questo è... Ah, non c'è più la mia scheda. Allora, questo è un 12 più 4, 16, più 3, 19. Smite. L'hai colpito. E quest'altro è un 16, più 4, 20, più 3, 23. Quanti danni faccio? Un di 4 più la forza. Quindi 1, quindi 5, 5 e... No, 4, 4, 8, 5, 13. E poi gli chiudo la strada, diciamo. Non ti serve chiudergli la strada, perché gli dai un cartone diretto sul naso e gli fai perdere i sensi. Okay. Vabbè, io allora caccio la mia fune, lo leggo. Sì, e mi fai... poi cerco di farlo rinvenire dandogli degli schiaffetti. No, no, no, perquisa. Ah, vabbè, ovvio, scusami. Grazie. Dici sto cazzo. Perquisiamo, vediamo se c'è i soldi. Quando è monete d'oro? Non mi interessa, voglio sapere il libro che cosa contiene. Vedi che addosso ha una sacca per i soldi. Trovi un sacchetto di soldi. Trovi dentro un totale di una moneta d'argento e 3 di rame. Addirittura. Poveraccio del cazzo, le butto lì. Super ricco. Fottesina, sono troppo ricco queste cose. Noti, perquisendolo, noti che non ha niente addosso. Ha un coltellino, sai, di quelli tipo la tasca che serve utili di ogni giorno. Non è una lama per uccidere, è un coltellino di quelli lì. Appunto la borsa con i suoi soldi. Avrà sicuramente la chiave del suo appartamento, della sua casa, giusto? La stava chiudendo. La tessera magnetica. Raga, ha il libro, cazzo. Non ha con sé nessun libro. Trovi una pipa. Un'altra cosa particolare che noti è che sul suo braccio sinistro, con un inchiostro nero, sono tatuati quelli che sembrano tipo una creatura con dei tentacoli. Vabbè, andiamo a vedere la funzione, dai. Questo fallo... Perché letteralmente preso il primo che passava, il primo poveraccio che passava. Sì, era per curiosità. Ma non possiamo andare a vedere la casa per acquisirla rapidamente. No, per guardiamo prima il rituale. Sì, ma possiamo almeno legarlo dentro casa, che questo sì, ci... Sì, quello possiamo fare. Ok. Ma possiamo ucciderlo, cazzo c'è? Ok, siete ancora al limitare del villaggio. La casa di ammazza, no, tu c'è la tua religione. Se non è colpevole, non si può uccidere. Beh, colpevole di qualcosa lo sarà. Giusto. No, ma io non sono così cattivo. Lo leggo, gli do un bacetto sulla fronte e me ne vado. Che schifo. Ma volete entrare in casa o nella funzione? No, sì, andiamo dentro casa, lo schiaffiamo dentro casa, sì. Però poi okay, apri. Ok, entrando nella porta di. Entrando in casa, notate una seconda figura sulla. Aspetta lì dalla porta. Una donna, una giovane donna, anch'essa sui 28-27 anni circa. Che vede appena vede entrare due figure sconosciute con il marito legato, inizia un po' a cosa succede, inizia a tremare e a farsi indietro. Firebolt. No, ma bisogna chiedere informazioni a lei, testa di pene. Ma per Firebolt, ma tiro per colpire allora. No, non è fatto. Preso dal Lazio. Ci sono messo dall'anziandino, tiro per colpire. Da vedere la figura della donna. Oddio, è una donna! Raga, la prossima volta voglio Barbagianni, cazzo. 19, l'hai presa in pieno petto. Cioè, quest'altro mille scrupoli, la donna la one shottiamo diretto. Bruttibile le donne. Non l'ho fatta apposta, è stata più legamento, un po' l'istinto. Questo è un di 8, io voglio un di 10. Questo è un di 10? Sì, mi piace questo, lo vedo adesso. Ok. Tredici. Hai messo il carisma. la palla di fuoco esplode su di lei, vabbè, sì, letteralmente, sì, avvolgendola completamente nelle fiamme. La paura, la sorpresa ti ha fatto gettare un getto di fuoco più grande del solito. Viene avvolta completamente dalle fiamme. Vedete che si dimene e urla per qualche secondo, per poi accasciarsi a terra e non muoversi più. Posso sollevare una questione? Buono. Nella sua scala c'è scritto legale buono, però non lo so, cioè... No, mettiamo neutrale. Già, sei ufficialmente... Ti prego, non caotico, vantaggio. Vantaggio adesso, Giambe, non puoi... Sicuramente caotico e sicuramente non buono. Caotico ancora no, dai, caotico no, però è neutrale. Ho salvato l'altro. Però sei neutrale, malvagio, già. Neutrale. Ci devo scrivere NM. Niente, vabbè, io mi volto verso Jump, tipo così. Vabbè, già che ci siamo, diamo fuoco alla casa, allora. Ormai siamo abituati. No, io l'ho detto con sarcasmo. Poi so che lui dà fuoco a tutto. Se dà fuoco per la casa, poi dobbiamo venire anche noi. Sarà difficile dare fuoco a questa casa perché è principalmente in pietra. Quindi un po'. Okay. Fidati che i cadaveri. Infatti, il cadavere della donna brucia per un po' e poi si spegne. Vabbè, andiamo a sta cazzo di funzione, per favore. Posso chiedere, posso far rimanere il tizio? Così vede la tipa morta. L'avete colpito abbastanza duramente. Farlo rinvenire ci vorrebbe un aiuto. E altrimenti... Vabbè, allora niente. Lo giriamo. No, andiamo verso sta cazzo di funzione. Vabbè, lo leggo da dentro, perquisisco la donna. Ma non c'ho legato. Tu perquisisci la donna quando ti rendi conto che stai letteralmente perquisendo un pezzo di bacon, perché non c'è niente addosso alla donna, è completamente bruciata. Vabbè, siamo andati con una cosa sbagliata. Come mi dispiace per quello. No, no, la casa era giusta, era la moglie del tizio, solo questo. Mi sento molto in colpa, però vabbè, dai. No! Anch'io! No, non sarei così forte, non me lo ricordavo! Ma era il 2000 di merda che stava lì, come pensavi di non ucciderlo? Ma tra l'altro delle due avrebbe avuto più senso ammazzare lui, magari lei ci dava più informazioni, però vabbè, andiamo verso il... Voglio dire, la casa è lì, però più aspettate, più si fa sera. No, tarda. Andiamo verso il coso. O io vado verso il coso, poi lui faccia quello che vuole. Ok. Lasciarlo vivo, salla. Basta, era toccato. Andiamo. Spire e Barbagianni. Che in questo momento sono sulla strada verso il promontorio. Sapete dove dovete andare? Sì. Però... La luce. Per via della luce, per via del fatto che sembra ci siano delle fiaccole prima promontorio. Però più salite in direzione del luogo in cui siete diretti, ora Barbagianni riesce a vedere al buio. Gino e Pyre non sono così fortunati. Come volete fare? Entrambi non avete oscura visione. Con una torcia. Scendete una torcia o cercate di farvi guidare bene meglio da Torcia? A me non interessa la torcia, vado avanti perché c'è il cazzo dritto. Non è un cazzo nel buio, capito? E fammi un tiro salvezza sulla destrezza, Pyre. Ok. 16. Ok. Barbagianni cerca più o meno di farvi strada nella notte, ma più vi avvicinate alla cima del promontorio, più il sentiero si fa sparso, non c'è un vero sentiero che lo segna. Le rocce iniziano a diventare friabili, per non dire franabili. E Pyre, tu a un certo punto metti giù il piede nel vuoto per un attimo, senti un attimo proprio la terra, i sassi che rotolano sotto di te, ma riesci a ripigliare l'equilibrio subito. Barbagianni ti informa dopo qualche secondo che dove stai per mettere il piede c'era praticamente, eri sul limitare della parete rocciosa e stavi per fare un volo di sotto, giusto per... Ah, ok. Allora gli dico vai avanti tu e facci strada. Ciao, ok, riuscite a salire nella notte, facendovi guidare da Barbagianni. Ed è stata, se posso permettermi, un'ottima idea non usare la torcia, perché quando vi avvicinate alla zona, alla cima del promontorio, notate che a guardia di un altro altare, sempre fatto di pietra, ci sono tre figure, anch'esse incappucciate, con delle vesti di cui anche voi non riuscite a capire bene il materiale di cui sono fatte, ma Gino lo riconosce come lo stesso tipo di quello che stava indossando la donna nella chiesa ed effettivamente anche gli altri componenti che c'erano dentro, che sembrano essere lì di guardia, che a curare le torce per evitare che si spengano, eccetera. Fatemi un tiro di stealth. Ma sono completamente coperti nel volto? Fatemi prima un tiro di stealth. 7. Ci sta. 13. Siamo qua. Andatemi un attimo. Poi posso farti una domanda? Certo, sta. Ma le vesti di questi tipi sono simili alle vesti dei... Sì. Tipo dei... dei Zentari, no? No, assolutamente no, non hanno minimamente, non è minimamente quel tipo di veste. Ok. Se riuscite ad avvicinarvi a loro, perché sebbene le rocce non aiutino, il fatto che facciano rumore sotto i vostri piedi, riuscite a tenendovi a debita distanza e aiutandovi con il rumore delle onde, che si fa sempre via via più forte, più originale. Okay. Riuscite a restare nell'ombra e ripararvi dietro un gruppo di rocce un po' più alto delle altre. E a questo punto vedete di nuovo, vedete meglio questi tre uomini, anche se notate meglio le loro vesti, innanzitutto, che sembrano fatte di un materiale. Deve essere una specie di pianta o qualcosa del genere, perché è verdastra e sembra fibrosa, è un tipo di delle fibre vegetali che sono state tessute a modo di abito, però di un colore verde smorto. E di nuovo notate che questi uomini hanno chi le braccia, chi una fascia intorno alla bocca e alla testa, chi ha tipo le orecchie, questa parte della testa come una specie di fasciatura tutta intorno alla testa e sulle orecchie coperta, eccetera. Cioè quelli che non hanno la faccia coperta, più o meno riesco a vederli, cioè nel senso a identificare il viso. Sono tre e le ho dette tutte. Uno ha le braccia coperte, uno c'ha praticamente una fascia che lo copre sulla bocca, a mo' di sciarpa praticamente, e l'altro ha una specie di calotta fatta con delle bende che gli copre le orecchie e la cima della testa. Ma per caso sul pelo è tipi dell'equipaggio? No, scusami, non ho sentito. Ma per caso assomigliano ai tipi dell'equipaggio? No, sono uomini. Dai tratti del volto potresti dire di 20 o 30 anni, che a parte le bende sembrano assolutamente normali, però non li conosci, non erano membri del tuo, dell'equipaggio della 29. Ok. E sono solo tre a guardia almeno, poi gli altri stanno più avanti. No, sono loro tre intorno all'altare che si occupano delle torce per evitare che si spengano. Ok. Vabbè, possiamo farli fuori. Mi faccio avanti e chiedo: buonasera, ma che sta succedendo qui? Che state facendo? Sono un forestiero e non so davvero cosa sta succedendo in questo piccolo paese. Io rimango nascosto. Vedi che loro si scambiano sguardi sconcertati una tra di loro, non sembrano sapere cosa fare. L'uomo con le braccia fasciate. Non è niente, solo una funzione religiosa del villaggio. Non preoccupatevi, potete prendere una torcia e tornare indietro. Non c'è nulla di interessante qui. Anzi, in cosa consiste questa funzione religiosa? Indica al villaggio, però non te lo indica perché praticamente tutta la mano è fasciata, quindi non posso. Ah, ok, quindi fate questo saluto nazista. Che tipo di funzione è? Hai detto qualcos'altro? Scusa, non ti ho sentito. No, l'ho detto io. Che tipo di funzione è? Almeno il grado. Glielo chiedi. Non ci sono io. No, vai. Sì, che tipo di funzione è? Il grado. Quante incognite. Esatto. Mi puoi tracciare il grafico, bianca pinna. Dipende lì, dipende da come vuoi vederla, se preferisci la raffigurazione, va bene. Ultra Alfa. Niente, una semplice messa, non vi preoccupate, per favore, tornate indietro. Vi dico... Non interrompete le nostre funzioni di gioco. Un altro, cioè un signore che prima di incontrare questa donna mi ha detto che voi siete soliti sacrificare persone. A questo punto vedi che gli altri si avvicinano al primo tizio col che ti stava parlando, con fare minaccioso, e dammi un attimo e lo ammazzano. Finalmente si avvicina verso di te con fare minaccioso. A questo punto dicono: non lo ripeteremo di nuovo, torna al villaggio. Sti gamma. E dico: no, ma io non ho intenzioni moleste, voglio solo sapere. Di nuovo quello con le braccia fasciate, questa volta ti dà una spinta, cerca di spingerti indietro e torna al villaggio. Vabbè, tirami iniziativa. No. Ma no. Ma no, ma io... Senti, hai dato fuoco a una persona già. Tutti a questo punto. Fuoco, io. Vabbè, c'è un po' che tu fai troppo casino, io sono stato silenzioso. E John, voi siete diretti alla piazza adesso? Sì. Di nuovo sulle strade principali o cercando di non far vedere? No, è dritto. Ok, come dice il capo. Adesso vedete, arrivate alla piazza in cui eravate prima, solo che in questo momento è completamente gremita di persone. E non appena arrivate al margine della piazza. No, vabbè, però io non voglio arrivare affinché loro mi vedano. Ok, allora arrivate a distanza visiva del margine della piazza, vedete che adesso è completamente gremita di persone. Io perlomeno. Io sinceramente aspetta. Hanno qualcosa di tipico addosso o sono vestiti normalmente? No, la maggior parte di loro, quelli che riuscite a vedere, sono vestiti con vestiti comuni, da comune abitante, da comune cittadino, vesti semplici, un po' di pelle, un po' di sì, ho capito. Se vado in armatura mi sgamano diretto. E ok. No, io dicevo, guardavo Sara e dici, e dico, che dici se prendo le sembianze del tipo che abbiamo... Se vuoi sì, ma quanto dura questo prendere sembianze? Perché io non posso entrare lì perché mi sgamano, sono in armatura. Per cui mi nascondo qua di fianco e tu prova a avvicinarti nel caso. Posso indossare l'armatura di Salla? Va bene, però non puoi lanciare magia nell'armatura di Salla. No, ma perché no, sto cazzo? Perché se uso Alter Self mi trasforma tutto. Quindi tecnicamente posso portare la tua roba. Lo so, ma tanto... No, vai. Tutto ti serve un 15 in forza per indossare un'armatura pesante. Ok. Se no cammino come un orangotango, proprio non la posso indossare. No, ma non è un casino. Quasi camminato, perché pesa parecchio. No, ma è un casino, perché dopo devi tenerla tu, è un gran bordello. No, secondo me puoi provare a avvicinarti tu, che sei anonimo, e io sto un po' in disparte. Vabbè, io comunque comunicherò con te, Salla, perché userò il cazzo di Kendrick di merda che c'ho. Per poterti far sentire delle voci, quindi potrei soltanto semplicemente scriverti la situazione. Non credo funzioni così, ma vabbè. Come no? A message può indicarti con un dito e tu senti la sua voce nella tua testa. Ah, ecco, non abusarne di indicarmi dal mezzo alla piazza. Ciao! No. Amico. No. Vabbè, no, ok, va bene. Facciamo così allora. Perché sinceramente o era questa la soluzione, oppure se c'eravamo tutti, era l'idea che io diventavo Tobias, tipo mezzo sanguinato, mi buttavo a terra, tutti mi guardavano e poi cerchi di studi. Se sono troppi, mi sa che non ce la fate. Vabbè. Mi prestate tutto così a discutere tra di voi un pochino? Iniziativa. Ah. Inizia a sentire... sopra di voi i classici rumori che non sono assolutamente quelli che ho fatto io, dei tuoni e così, e una pioggerellina sottile inizia a cadere sul villaggio. Ah, pensavo che avessi previsto cosa l'avevi fatto. Thunderway. Allora è perfetto, si camuffa anche. Ditemi cosa volete fare. Io allora mi nascondo. Secondo no, sto un po' in disparte. Se trovo un vicolo che si avvicina alla piazza, magari lo prendo. E jump, non so. E puoi farmi un tiro di stealth con svantaggio perché indossi l'armatura pesante. Lucky 13. Tu Gallifrey cosa fai? Tu riesci a trovare un po' di ricentrifugarti tra una casa e l'altra e senza farti vedere avvicinarti un po' alla folla di persone. Sembrano tutti rivolti verso la chiesa che dicevamo prima. Basta per il momento, cioè, sembrano tutti aspettare qualcosa. Ok, va bene. L'unica cosa, poi ti lascio fare il combattimento monetario che lo voglio sentire, che mi divertirò. Vedendoti questi tizi, cioè, comunque capisco che sono tutti, cioè, villani, nel senso, tutti villani, gente comune, nel senso, mai educati. Il termine che stavi cercando è villici, ma sì, nel senso, la maggior parte di loro sembra essere comuni pescatori o contadini o proprio pastori. Li vedo armati, non vedo armature, vedo tutto comunque La maggior parte di loro ha un coltello per sviscerare il pesce e niente di più. Quindi una bella fireball farebbe tipo Piazza Pulita quasi. Praticamente. Letteralmente Piazza Pulita. Cioè potrei tipo fare... Sì, sì. Molto probabilmente, cioè... Considerando il raggio della fireball, ha un raggio di 30 piedi? Sì. 30 piedi, almeno una ottantina di persone le bruci vive. Riesci a stimare con... Oddio, oggi sono donna, mi senti in colpa, adesso devo ucciderli tutti. Marco Digio, non capisci. No, vabbè, solo nel caso la situazione si dovesse scaldare, così... Assolutamente, non... Dio, però mi devi dire cosa fai, Gal. No, io cerco di andare lì. Se devo tirare stealth, cioè nel senso, se tutti sono concentrati verso quella direzione, invece che fare troppi camuffamenti, troppe cose, posso avvicinarmi senza essere notato? Dipende quanto ti avvicini, se vai in braccio a uno lui ti nota, non è che... No, e tu immagina la scena, capito, tutti guardano lì, capito, uno che ti sta troppo... dietro a tutti, l'ultimo della fila. Ma sì, dai, sì. Vediamo. Vediamo, sì, facciamo di sì. Ya. Yeah. Certo, che cazzo non è? Scherzo. Ok. Ho fatto 12. Tutti avvicini cercando di fare nonchalance verso il retro della fila. Inizia a vedere un po' meglio adesso, tutte le persone stanno guardando verso la chiesa e davanti alla chiesa sembra che stiano lasciando tipo uno spiazzo davanti la chiesa, come se aspettassero il passaggio di qualcuno, lasciano un percorso in mezzo alla folla. Nel cercare un po' di sporgerti sopra le persone, però, cercando di vedere un po' meglio, se ti accorgi perdi un po' l'equilibrio e sbatti contro la spada di uno, che dice, oh, scusi, non... Si accorge che tu... sei minimamente uno del villaggio? Non è vero, sono identico. Ma ti sei camuffato o? No, non mi sono camuffato. Allora non sei un mezzelfo con delle vestiti da stregone, non vorrei dire, non sei proprio... Non dimenticare i lineamenti di cristallo in mano, tra l'altro, per dire. Sì, perché no? Ti faccio una mano tranquillo. E continuo a fare la chiesa. Non dovresti essere qui. Gli stranieri non possono assistere alla funzione. E adesso anche le altre persone intorno a lui si stanno voltando per guardare, per capire cos'è questo fireball. Vabbè, fermiamoci qui. Inquadriamo adesso l'altra scena. Lasciami in qua. Così penserò. E facciamo uno stacco verso l'altra scena. John, tu vieni appunto spintonato da questa figura. Mi sembra che avesse intenzione di fare un esperienza. Nel momento ti sta ancora minacciando e intimando di andartene. Puoi decidere tu cosa fai. Ti colpisci subito, c'era uno sorpreso. Ah, guarda, io sto rimarcando il livello della tua testa e uso tanto quello. Quindi sono violentissimo. Vabbè. Ecco. Tirate iniziativa. Ma perché loro sono delle guardie, vero? 8. Datemi un attimo. Oh, io ci ho provato a fare il diplomatico, cioè mi ha spinto. Allora, dammi un secondo, Ci sto sedendo troppo in colpa perché ho ammazzato la tipa. Ma voi uccidete tutti i miei ragazzi. Sto pensando alla tipa, è l'unica donna. Non si potranno più riprodurre questa popolazione. Ma stanno per ucciderli tutti. Che si possono riprodurre se non c'è nessuno? Sperando che mi trovassero. Devo stare con Zed, lo sapevo. Faccio sempre così. Fai le 8. 8? Gino. 14. Barbagianni? 4. Di cos'è? Barbagianni. Lì nella penombra. Che sta dovuta. No, perché eravamo benissimo che ci fosse tipo stentato, quindi... Fotte seghe, provo a guardare. Afferri il tuo... il martello da dietro la tua schiena. Sì. E poi per estrarlo. Ma... la creatura di fronte... l'uomo di fronte a te è più rapido di te nel reagire. Sì. Ma rapido quanto lui è anche Gino. Avete fatto entrambi 14, quindi agite in contemporanea. Allora lo fermo, diciamo, sull'ascere. Sull'ascere. Ti posso chiedere una cosa? Ma loro dovrebbero avere una sorpresa? O comunque no? Perché sono davanti. No, perché l'innesco alla battaglia è stato Pyre che estrae il martello. Quindi allora, loro, Barbagianni e Gino, sono nascosti e quindi hanno vantaggio nel colpire, ma non hanno il round di sorpresa. Marco, possiamo fare che mi sono nascosto a circa 20 piedi da dove sta il tizio? Sì, più o meno a distanza delle rocce dietro quali eravate nascosti. Divento un coso... uno squalo. Divento, come si dice? Un piranha gigante. No, divento una certa. No, divento un gigantesco cervo. Però pari. Un cervo. Però pari. Va bene. Lo carichi, ma lui agisce in contemporanea a te. Quindi lui si avventa su Pyre. Ah, dammi un attimo. Allora, devo dare una pozione, mi sono dimenticato. Di cura? Tu l'avrei già visto. Scusa, visto che già in contemporanea, non dovresti vedere se prima fallisce il tiro salvezza e cade prono? Oppure agisce lo stesso e poi cade prono? È una domanda filosofica. Potete virare entrambi e vedere quello che fa un po' di più per vedere quello che ha leggermente più anticipo rispetto all'altro. Sì, è complicato da il punto è che tu ti devi, per come l'hai detto, tu ti devi trasformare e poi caricarlo, quindi gli diamo un piccolo vantaggio e lui può colpire Pyre nel frattempo. Vabbè, ha senso. Ha senso, senso. Ci sta. Mi dispiace. In un altro contesto sarebbe stato difficile. Non sono colpiti. Ok, allora condizione necessaria è sufficiente. Prima di tutto Pyre, lui cerca di colpirti tirandoti due pugni con la mano destra. Un 8, no? Col 9, chiamo di no. Ti manca entrambe le volte con la mano destra. E lo vedi che sembra un po' sbilanciato, non riesci a capire bene il motivo. E a questo punto che praticamente la sua... il suo braccio sinistro si allunga verso di te. Oddio, Luffy. Oddio. Le bende si sciolgono e dove dovrebbe esserci il braccio di quest'uomo c'è un'appendice tentacolare, vedi delle ventose che cercano di... Non è Luffy. Ma fanno 10, quindi che è una merda suo. No, scusa, 11. Vabbè. Comunque, no. Quindi niente. Perfetto. Prima andato. Mentre quest'uomo, questo povero uomo demoralizzato dal fatto di non riuscire a colpire una sega, colpito in si accorge del cervo che lo carica. Esatto, viene colpito in pieno dal cervo, che fa uno spiedino di mare e gli fa... con un no, non colpisce con lo con un 22 colpisco, immagino. Lo colpisci. Gli faccio 13 più 4, 17 danni. E minchia, 17 danni, vabbè. Deve fare un tiro di salvezza all'estezza di 14 alla forza. Lo supera. Ok, allora rimane in piedi. Vedi che praticamente usa il tentacolo che ha al posto del braccio sinistro per ripararti, per cercare di riparare l'attacco, e ti senti in qualche modo, riesce a mantenere, stare bilanciato, e adesso ti senti questo tentacolo che ti pendola addosso sulla destra. L'uomo dietro di lui, quello con quello anch'esso con benda sulla bocca, si ammetta sul cervo, visto che ha appena colpito il suo amico, e di nuovo cerca di colpirlo sperandogli dei pugni e dei calci. Con un 22 ti colpisco, cervo? Sì. Con un 17? Sì. Ok, sono... No. Sono 8 danni. Wow. No, scusa, ho sbagliato. Scusami, ho perso qua. Sono 12 danni. Wow. Dopodiché, vedi che praticamente ti ha afferrato con le braccia, cerca tipo di tenerti un attimo. E anche lui... con una mano si scioglie le bende che ha attorno alla bocca, e dove ci dovrebbe essere il resto della faccia di un uomo, vedi che il naso praticamente è scomparso e la bocca arriva fino alle orecchie dell'uomo, si apre fino alle orecchie dell'uomo, mostrando dei denti tipo da squalo. Ok, non me lo sogno stanotte questa cosa. Facendo un altro 22. Ok, mi colpisce. Facendo altri 5 danni. Anche il terzo si dirige verso di te, sempre. Un attimo. Di nuovo, anche lui cerca di colpirti come può, con pugni e calci, facendo un 12. No. E un 22. Non ho capito una cosa, uno ha le braccia che si allungano, uno ha i denti da squalo e l'altro? E l'altro adesso lo scopriamo. Ah, ok. Il pene che si allunga, incredibile. Nel cercare di afferrarti, nel cercare di colpirti, vedi che la fasciatura intorno alla sua testa, già abbastanza non tenuta benissimo, si perde completamente, e al posto dei capelli la pelle sulla testa si riduce a scaglie, sembra avere delle scaglie sopra, e dove ci sono delle orecchie ci sono delle specie di pinne, sai, quelle le membrane. È costicato, diciamo. Esatto. Che quando i suoi pugni, quando cerca di colpirti e di graffiarti, noti che effettivamente ha delle unghie più lunghe e resistenti di quelle di un essere umano. E con un 20 ti colpisco? Sì. Allora, vedete i danni prima? No, non ti ho detto i danni dei due pugni. No, uno dei due pugni è la tua serie. Sono 4 danni contundenti. E 6 danni da veleno e mi devi fare un tiro salvezza sulla costituzione. Evviva! Evviva! Evviva, evviva, evviva! Ho fatto 5. Ok, sei considerato avvelenato. Perfetto. Se muore il tizio, l'avveleno scompare, vero? No. Ah no? In poche parole, hai svantaggio ai tiri per colpire e alle prove di abilità. Figa. No, io dico, se il mio cervo scompare, sono ancora avvelenato? Sì, ah, perché il veleno l'hai iniettato dentro di te. Ok. Ok, vai. Per colpire? È l'abilità. È l'abilità. Hai appena visto tre mezzi pesci che hanno cercato di colpire te e... Che puoi stare barchi per avere... Allora, diciamo che... Appena vedo i tentacoli, impazzisco. È un flashback da Vietnam, praticamente. Esatto, è un flashback della nave che è un flashback del naufragio quando ero più giovane. Quindi smartello in testa il primo che ho davanti e attivo il potere del martello usando Thunderwave. Ok, con Thunderwave praticamente colpisci tutti quelli intorno a te, i tre tizi, ma anche Gino. Vabbè, mi dispiace. diciamo 25. No, non devi colpire. Fai Thunderwave, casti Thunderwave. No, fa la martellata. Sì. Cioè, oltre a Thunderwave, c'è la terra e casti Thunderwave. Okay. Nel senso, o do la martellata o casto Thunderwave, quindi. Sì. Lanciare, usare l'effetto del martello è un'azione completa. Ah, è un'azione completa, ok. Vuoi fare il Thunderwave, se vuoi usare quello che fa danni in più a un singolo bersaglio, quello fa parte del tuo attacco. Sì, boh, dai, uso quello, vaffanculo Thunderwave. Ti colpisci tentacolo, squalo o orecchia pinna? Thunderwave, che quanti danni fa? Quello che ha cercato di picchiarmi. Ok, tentacolo. Ho fatto 25 e 19. Colpito entrambi, benissimo. Quindi 3, 4, 7, 8, 1, 2, 6, 9, 16. 22 più. Aspetta, questo è il primo attacco. No, tu sono. I due attacchi sono 26. Consiglierei di fare un attacco alla volta. Ok. I danni. Calcola un attacco alla volta. Ok, allora ho fatto. Il primo attacco 11. Ok, allora anche se col secondo attacco allora lo finisci. Ok. Ah, quindi attivare il potere del martello. Connetti due volte con il martello e lo lanci quasi giù dalla scogliera. Cade a terra e non si muove più. Barbagianni, okay. Il tuo turno. Allora. È rimasto vivo quello con la bocca e quello con le orecchie, giusto? Sì. E sono tutti e due su Jacopo. Sì. E allora c'ho sneak attack. Cazzo, io perché fare questo? Mi faccio un tiro per colpire. Che fa 11. Hai vantaggio al tiro per colpire la Bagiani perché sei nascosta. Quindi hai anche sneak attack. Sì, sneak attack ce l'avevo, mi ero indicato il vantaggio. 24. Grazie. Una volta sola, ma male perché mi fatto per colpire. Mi sembra che non funziona. Allora, 24. Faccio la lista di livelli, non tipo un po' che posso avere. gara. Nessuno. Resistere a fuoco perché non c'è niente. Poi posso fare uno, due, per castare. Conviene scriverlo perché non sento. Ho tirato uno dei danni. 18 danni. Ho fatto il quarto danno. Ok. Hai detto qual è il titolo con lo squalo o orecchia pino? Per fare uno schifo che tre vorrei cambiare. E mi nascondo. Cioè, sceglierò chi? Sentirò per lui. Quando ti faccio tipo salito. Fai un tiro per nasconderti. Ah, non ho sentito. Non hai niente le mie spalle. Era molto buono. Però non c'è più tiro. Ok. Dal buio una freccia colpisce l'uomo con i denti da squalo e la figura che ha lanciato la freccia torna subito a perdersi nella notte. Stacco nella piazza del villaggio. Speravo che ha iniziato a creare un po' di agitazione quando un gruppo di uomini sembra aver trovato un introdurre alla festa. Adesso vai. Senti, poi staccato il tuo microfono 2 secondi. Ti ho sentito pochissimo, Ciccio. Ah, meglio? Sì, diciamo che il problema è che sta ricevendo un sacco di fax l'azienda di Gala. Dicevo, Gallic, tu in questo momento hai una decina di uomini che ti sta intimando di andartene dalla piazza, di tornare alla locanda o... Sì. Li ascolti, faccio, scusate, non pensavo, ho visto tutta questa gente riunita, me ne vado subito, buon divertimento. Ok. Allora, idea, te lo dico subito senza girarci troppo intorno, trovo il primo posto in cui non mi vedono, mi trasformo nel tipo che avevo rinchiuso e mi reco di nuovo là e faccio, scusate il ritardo. Ok, vedi che gli uomini... Lo fai, ti rifugi, giri un angolo e dietro la casa casti il tuo incantesimo. Levo un altro slot. E vedi che effettivamente gli uomini stanno ancora guardando la direzione da cui ti sei allontanato e per capire se nel caso stai tornando indietro. Quando vedono arrivare un loro compagno. Vabbè, ma io non è che lo faccio in modo così eclatante a farmi proprio notare di proposito. Anzi, dico, siccome sono in ritardo, voglio anche quasi essere un po' più, mi capisci, il tipo che non vuol far vedere che è l'ultimo arrivato. No, nel senso, loro stavano guardando in quella direzione perché non volevano che che Gallifrey tornasse indietro. Ok. Però fino ad arrivare... Qui la cosa simpatica è che io giro l'angolo, appena vedo che giro l'angolo esce quest'altro. E ok, nessuno sospetta niente. Non fosse proprio Gallifrey svolta e arriva quella... Sì, non lo so, immagino. Ok. Trent, sei arrivato quindi. Dove eri finito? Mi sei fatto un po' tardi. Sai come sono le donne? Ti chiedono sempre di fare una cosa, un'altra, e quello. Vieni, la processione sta iniziando. Sì. E ti fanno un po' di spazio nella... Beh, devo mettere le mani. Che tu riesca un pochino a vedere com'è la situazione nella piazza. E proprio in questo momento, dalla chiesa inizia a levarsi un canto, delle voci, un classico coro. Come si dice? Un classico coro di voci. E dal tendone che chiude l'ingresso della chiesa esce una figura con un lungo bastone rosso, seguita lentamente da svariate figure incappucciate. e tutte iniziano a dirigere. Ah, che hanno il cappuccio, sono proprio coperti nel volto. No, hanno il cappuccio, tipo normale. Ok. Tutte che iniziano a seguire la strada che praticamente gli ha lasciato aperta la folla, che attraversa la piazza per poi curvare in direzione del promontorio. Escono 2, 4, una decina di persone, quando, diciamo, in mezzo a loro riesce a vedere delle figure che non sono incappucciate, ma anzi sembrano essere legate e forzate a seguirli. Eccoci. Eccola là. Io lo sapevo. Io so solo che se li ammazzo tutti quanti, tu non mi puoi far diventare caotico, ma devo tornare leale e buono perché sto salvando i miei amici. Cioè, io la vedo così, però non lo so. Non sei legale e buono per principio, ma vabbè, andiamo avanti. In queste figure riconosci i membri della... alcuni dei membri della vetta di Tramontana. C'è la capitana? Tra di essi c'è anche lì, la capitana. Vabbè, io non devo sbattere, quindi cioè, no, ci sta. Ma c'è una cosa, io propongo niente. Io comunque le scrivo e dico queste informazioni immediatamente a Salla. Come fai? C'ho prestidigitation! No, al massimo i message. Aspetta, ma io ti riguardo prestidigitation. Se tu e Salla avete entrambi la Apple, l'iPhone, cioè hai i message. C'è i message, cioè, ti chiamo su iMess, su FaceTime. No, è su Mac, FaceTime su Mac. Allora, comunque rivediamo la famosa presentation. Ma mi ricordo che tra le cose io potevo... Allora... Uno dei membri che vedi è Aren, quello grosso che ha sfidato Gino col vino del mozzo. Vedi, è la prima cosa. Posso creare istantaneamente un effetto sensoriale, oppure un insieme di parole, oppure un elemento, bla bla bla. Però c'ho 10 piedi, quindi è tutto falso. Non hai un message. Che altri? C'era un message come te? No, non ce l'ho. E quindi niente. Non puoi dirlo. 10 piedi non ci arriva al tipo a Salla, vero? E perché non hai idea di dove sia Salla in questo momento? Ah, praticamente con un canto che si leva da Sono dice. Ma non è detto che li ammazzino. Io li vedo questa gentaglia, sì. Sì, lo vedi anche tu questo. L'ha fatta sega, cioè spero di dire a fare le cose. Anche tu da dove sei lo vedi in questo momento. E la gente, questo gruppo, attraversa la piazza e si fa largo tra la folla e si dirige verso il promontorio. Dietro di loro la folla si richiude e lentamente inizia a seguire anche loro questo gruppo di. Non so qual è il modo migliore per uccidere tutti. Della turma non oppongono troppa resistenza, perché Gallifrey, tu che sei, riesci, sei più o meno nelle vicinanze di dove passa il gruppo di persone, sembrano molto per quanto sia passato solo un giorno, sembrano distrutti, nel senso di esausti, sì. O maltrattati probabilmente, non riescono ad avere più tante forze per opporre resistenza. L'unica che magari riesce un po' fa cerca di opporsi è la capitana. Posso però usare Presentation visto e dirgli nella testa una cosa, visto 10 piedi ci starà lei. Alla capitana? Sì. Semplicemente a farti un po' di strada dalla folla e avvicinarti abbastanza per entrare in contatto con lei, e dico semplicemente: tranquilla, vi salveremo. Boom. Vedi che la sua reazione, sono noti avvicinati, vedi che sono anche tutti imbavagliati, e la sua unica reazione è tipo voltarsi guardarsi intorno per cercare di capire da dove è arrivato il messaggio. Ti secca, uccido tutti. Vabbè, lo so, questo adesso ormai è troppo tardi, se no avrei già lanciato un incantesimo, però dopo sarebbe un cliffhanger troppo esaustivo. No, perché ci sta, dai, no. Ho 4 minuti, c'ho poco. Ecco, tornando alla rucca. Sì, sì. Io sei stato allora appena attaccato da squalo e orecchia pinna in zona di mare. Posso, allora, hai detto che ho svantaggio ai tiri per colpire e alle mie abilità, però no, loro non hanno vantaggio sui tiri di salvezza. No, tu in questo momento ti senti solo un po' nauseato, no? La testa ti gira, non riesci a concentrare bene lo sguardo, hai la vista un po' appannata e su di fretta. Con le ultime forze che ho mi faccio indietro di 20 piedi, prendo un attacco d'opportunità e carico di nuovo il tizio. Due attacchi di opportunità, quello che è. Carico di nuovo il tizio. Aspetta, che vediamo come cosa succede. Ancora, tanto il posto tu non c'è, questo va giù lo stesso, almeno posso buttare a terra un lato tu. 19. Colpito. 19 e 21. Per colpire. Yes. Giusto, perché okay. Faccio. Sei enorme. Sono 8 danni in tutto. Wow, 8 danni? Wow, beh, allora non te sega. Ma regalagli un altro attacco di opportunità per compassione. Allora, io ho usato Lucky per ovviare al problema del ricordo, insomma, abbiamo capito. E faccio 19. Ah, per cosa hai usato Lucky, scusa? Lucky per contrastare lo svantaggio e fare un tiro normale. No, Lucky non funziona così. Tu tiri con svantaggio e prendi il risultato. Poi tiri e vedi quello è il migliore. Ah, ritiro con svantaggio un'altra volta. No. Cioè, tu tiri con svantaggio, se hai fatto tipo 10 e 5, prendi 5, poi tiri Lucky e scegli. Io 5, 3 dadi. 3 dadi, esatto. Va bene, ho fatto 19. Grazie. In realtà non funzionerebbe proprio così, perché dovresti tirare con svantaggio, prendere il peggiore e poi usare l'Aki. Se il 19 l'hai fatto nel primo tiro, quello dello svantaggio, non puoi prendere 19. No, ma ho fatto un'altra volta 19 tirando con l'Aki. Allora ok. Sì. Ma quello dice, io pensavo che dovessi tirare due volte. No, mica l'Aki, cioè esatto, cioè lui tira. Quello che è. Perfetto, non ci siamo capiti male. Scusate. Con 19 lo colpisco? Sì, assolutamente. Stai facendo una carica? Sì, gli faccio 12 danni e lui deve fare un tiro salvezza su 14 della forza. Quale colpisci? Squalo o testa a pinna? Quello di prima. Quello di prima no, squalo. Ok. Ce l'hai abbastanza movimento per fare la carica? Sì, perché se ce l'avevo prima ce l'ho ora, sono 20 piedi. Quanto ti muovi? Qual è il tuo movimento? 60. E allora sì, certo. Ah, tu dici la velocità, sì. Sì, era quello che dicevo. Ok, 12 danni? Sì. E lui fa un tiro salvezza, giusto? Sì. L'ha superato anche stavolta. Che figlio di puttana, vabbè, e al prossimo turno vado giù, però vabbè, Edoardo, fai in modo che non ti si arrivi. L'ha superato anche stavolta e di tutta risposta, visto che gli sei praticamente attaccato, lui ti colpisce, cioè cerca di colpire. Vado giù. Fotte sera, non torni due punti di vita iniziale. I miei, perché ho finito di fare che... Jacopo. Yes. 23, ti colpisce. Quanti c'è? Fare 14 con la 16 con Baxi. No, vabbè, aspetta. Poi ho fatto 14. No. Aspetta, quanti punti di vita ti sono rimasti? 7. Ok, allora vediamo. Ok, sono 3 danni più un 14 ti colpisco? Sì. Allora sono ok, ammetto che dividersi danni non sia stata l'idea migliore del mondo per il momento. No, vabbè, altri 5 danni posso, ce lo scompare e ricompaio io. Ok, lo dicevo perché se adesso è una classe armatura diversa, appunto a quella. Praticamente è sempre la stessa. Prendi, prendi un punto di exhaustion per la regola che ci eravamo detti. Bravo, me l'ho spruzzato. Che prendi? Perché siccome è OP il circolo della luna, abbiamo deciso di fare che quando porti a zero un animale ti metti da un corri di exhaustion. Con un 19, anzi no scusa, con un 20 capisco. Sì, sì, sono altri 4 danni. Ok, la cosa brutta di scelta che non si può usare anche un compagno. Ok, l'altro invece va su Gino anche lui perché mi sento stronzo stasera. Oh, c'hai con i tizi blu. Sì. Quindi 23, 21 e 20. Porca paio. Sono il logo della non si... troppo, troppo. Sono in totale 12 danni, di cui 4 da veleno. Allora, allora, che cazzo faccio? Ah, scusami. Tu hai diritto a un minuto di salvezza sulla costituzione alla fine del tuo turno per terminare l'effetto del veleno. Ah, ma c'è il trucco. 14. L'hai superato, però siccome ti ho colpito di nuovo con il veleno, devi farmi un altro tiro salvezza di costituzione per vedere se... Merda! Ah no, una volta c'è... 22. 22. Questa volta il veleno non ha nessun effetto su di te. Perché ormai sei abituato, cioè, vai, re. Già salvo. Allora, picchio... Boh, attacco prima squalo. Perfetto. Squalo è già abbastanza ferito. E muore. Con 15. Ma sì. Colpito, squalo muore perché ha 2 punti vita. Ok, allora l'altro attacco se lo becca, l'altro tipo che non mi ricordo che certamente è una cicana. Coglione. 12. Colpito. Stanno indossando delle vesti di 12 danni. Non ve lo potrei consigliare, però non potreste. Sì. Barbagiani, tocca di nota. Ci potrebbero tornare tutti le vesti. Colpisco anche io. Ok, una freccia. Sì. E vantaggio e sneaker. Eventi naturale. Il più duro sei forte. Cazzo. È probabile che se lo uccida in questo punto. Ti vai dai. Ho fatto l'atto dell'officina di tuo padre, deve essere da quello schermo. Ti sta. Devi raddoppiare il finale, se non ti ricordi. Cosa c'è? Invece dai. Eh? 15. Un critico. 15 danni. No, avevo capito che si è fatto un critico, scusa. Un'altra freccia, sempre dal buio, lo colpisce. Ovviamente. Gino, tocca di nuovo a te. Gino. Gino. Sì, scusa. Tocca di nuovo a te. Cerca di distruggere. No, perché al momento sono senza... Vabbè, c'è una spell normale. Vedi che l'uomo di fronte a te è messo parecchio male, colpito da... Questo super spell. Faccio uscire la che gli do una bastonata in faccia con un pezzo di ciò. Faccio 19 per colpire. Vita. E 11 danni. Con una mossa da Kung Fu degna di Bruce Lee. No, degna da Jackie Chan, più da Jackie Chan. Dai un colpo allo stomaco e uno in testa e cade a terra morto. You are dead. Prendo le sue vesti e le sue, cioè tipo le fasciature, così, e cerco di mascherarmi con uno di loro. Dicevo, è tardi, è un po' tardi, direi facciamo una scena conclusiva con Gallifrey e John e poi dopo vediamo qua, direi. Sì, resta. John e Gallifrey, voi state seguendo la processione a distanza. Gallifrey, tu sei in mezzo. Io non sono a distanza, però. Tu sei in mezzo alla folla, se vuoi rimanere in mezzo alla folla. Sì, io casto l'incantesimo, si nota che l'ho castato, vero? Dipende dall'incantesimo. Palla di fuoco, boom. Sleep. Sleep? Che componenti ha Sleep? No, esatto. Aspetta. Metti in pausa un attimo. Giusto per curiosità. Perché? Così. No, in realtà nella mia testa si stanno girando una serie di cose. Girano sempre tante cose. A noi non gira nella testa, tu pensa. Esatto, un po' più giù. No, vabbè, dai, no, perché era un'idea di stondare la tipa e non lo so che cazzo voglio fare, ma tutti uccidere tutti, cioè castare tutti gli incantesimi che ho, fare piazza pulita, liberare i nostri amici e salvare il mondo. Vabbè, niente, fai quello che ti pare. Non volevo interromperti, fai quello che vuoi. No, vabbè, io vabbè, vedo la processione, la seguo. Finché non vedrò un momento propizio. Sto a distanza. A meno che i tizi sono interni, immagino. L'equipaggio è all'interno della folla. Ah sì, sono tipo circondati dai tizi incappucciati. Quanti sono, hai detto, più o meno? Tu li vedi, sono circa 6 dell'equipaggio. E gli altri che del villaggio? Il villaggio praticamente sta seguendo la processione, in tutto in totale ci saranno sulle 200 persone, però noti che tutti sono, la maggior parte sono contadini, pescatori, no? È come Wyvern, cioè, capito, li becchi, li ammazzi tutti, sera. Sì, però io non riesco, quindi aspetterò che lo faccia tu e seguo anch'io da distanza. Ok. Mi sento in collo da ammazzare questa gente. La notte, con un canto che si leva al cielo che sta diventando sempre più scuro e dal quale una pioggia ormai fitta sta iniziando a cadere, la processione si avvia sul sentiero con queste figure illuminate dalle candele che portano in mano, e scopriremo quello che faranno i nostri eroi nella prossima puntata. Oh. Yeah! Cerca e distruggi! Sì! Da Rip GDR è tutto. Buonanotte. Vieni allo studio. Buonanotte. Notte.